get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Bentrovate e buonasera a tutte. Questa sera in radio. Vai Claudia. Ciao a tutte da Claudia. C'è aperto sopra. C'è scritto. Allora, questa sera c'è un attimo di prova Claudia, scusate. Buonasera a tutte. Sì, c'è anche Claudia. E allora siamo Lucilla che sono io, Claudia che avete appena sentito e naturalmente la nostra fonica per eccellenza Caterina. E vai. Perfetto, allora ben trovate e buonasera a tutte, come abbiamo detto. Oggi, come ieri, è freddo, ma noi siamo contenti di essere qui in radio e siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto nell'ambito del martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa. Al microfono, ve l'abbiamo già detto chi siamo, la console è ormai ci ha messo le radici e siamo tutte e tre del coordinamento lesbiche romane. Vi ricordiamo che la trasmissione si può ascoltare anche su internet ai siti di Onda Rossa, che è www.ondarossa.info.it, e al nostro, che è www.clrbp.it. Andate nei siti, cliccate l'icona in diretta e ci ascoltate. Se volete contattarci potete telefonarci allo 06 68 64 201, tutti i mercoledì noi siamo riunite dalle 20.30 in poi. Oppure potete inviarci una mail a contatti@clrbp.it. Per la diretta di stasera potete telefonare e allo 06 49 17 50, sono graditi i trillini, che ormai ve lo diciamo tutte le volte, oppure potete inviare un SMS, cioè un SMS, al numero 338 41 46 682. Per noi ogni forma di partecipazione è graditissima e vi dirò di più, vi diremo di più. Se volete venirci a trovare lo potete fare al numero che vi abbiamo detto del Centro Femminista Separatista, c'è una segreteria che non ascoltiamo quasi mai, comunque ci potete lasciare un messaggio. E no, non è vero, cioè, mi guardano male, è vero, le ascoltiamo. E poi potete mandarci un fax, potete mandarci quindi contributi sia scrivendoci mail che qualsiasi altra cosa. Oh, e quindi cominciamo. Evviva, dice Claudia, la firma della Costituzione Europea. A proposito, qualcuna sa che cosa abbiamo firmato, o meglio, hanno firmato i leader dei 28 paesi? Referendum sì, referendum no, ma su che? Allora, non c'è stato un TG o un giornale che abbia spiegato in cosa consiste la Costituzione, che sarebbe la legge fondamentale che riguarderà tutte noi molto da vicino, tutte noi donne lesbiche di tutti i paesi della CE. C'è, non lo so, vabbè, comunque della comunità europea. Non vi sembra che si sia profilato un pericoloso accentramento di potere? E non vi sembra forse che, per l'ennesima volta, le donne firmatarie fossero proprio pochine? Ma a me sembra ce n'era una, due, ma forse non lo so, forse tre, vabbè, ma perché il tre può essere il numero perfetto, esatto. Allora, ricordate la canzone Siamo in tante, siamo più della metà, ma non contiamo niente in questa società, è vero. Ebbene, a noi è sembrato opportuno andare ad indagare se casomai avessimo contato qualcosa in epoche passate e vi proponiamo questa trasmissione sul tema matriarcato e potere delle donne. si udiva appena un suono di campane, dei passi svelti sopra rami secchi. Dalla splendida voce di Giuni Russo, questo è stato registrato tra l'altro live, Il Sole di Austerlitz, in una versione inedita, molto bella, che è pianoforte e voce. Va bene, allora iniziamo la trasmissione vera e propria, cominciando a dire che la teoria del matriarcato nasce nell'Ottocento sulla scia dell'evoluzionismo. E non è che la proiezione della visione del mondo maschile. Il primo a sostenere l'esistenza storica di un periodo di potere femminile, ginecocrazia, fu lo svizzero John Jacob Bachofen nel libro Das Mutterrecht, il matriarcato. Mutterrecht. Va bene, scusate la pronuncia tedesca, non è la mia lingua. 1861. Sentiamo la sua tesi dal libro Passato prossimo di Eva Cantarella. Allora, a sostenere per primo questa ipotesi nel celebre Das Mutterrecht fu lo storico svizzero Johann Jakob Bachofen, secondo il quale tutti i popoli nel loro cammino verso la civiltà dovevano inevitabilmente attraversare una serie di fasi che nella ricostruzione bachofeniana sarebbero state nell'ordine: 1. Un periodo di promiscuità o afroditismo, nel quale gli uomini, grazie alla loro superiore forza fisica, avrebbero sottomesso le donne. 2. Una fase nella quale le donne, dopo aver tentato invano di ribellarsi con le armi, usando il potere legato al loro superiore senso religioso, avrebbero costretto gli uomini ad accettare il matrimonio monogamico, impossessandosi del potere sociale e politico, in altre parole, imponendo la ginecocrazia e dando vita a un periodo felice, pacifico e democratico, in cui sarebbero prevalsi i valori tipici della natura delle donne, quali la giustizia, l'uguaglianza e la clemenza. Tre, infine, una terza fase, in cui gli uomini, essendo forma e spirito, a differenza delle donne che erano natura e materia, avrebbero affermato i superiori valori maschili e con essi la famiglia patriarcale, che avrebbe consentito la nascita dello Stato, creazione ultima e suprema dello spirito umano. Wish that I could fly away instead of kneeling in the sun. Capito? Il periodo di predominio delle donne appartiene quindi ad una cultura rozza e animalesca che precede nell'evoluzione il periodo della gens civile e patriarcale, è chiaro. Ma vediamo quali fondamenti abbia l'ipotesi delle donne al potere, avvalendoci dello studio Il matriarcato come riflesso mitico della cultura dell'antropologa Ida Magli, che voi sapete bene che è una passione smodata e direi ormai non so definirla diversamente di Claudia. Ma sì, però la prima Ida Magli è la prima Ida Magli, e noi, ammorba noi, perché non deve ammorbare voi? Comunque condividiamo, su questo noi condividiamo. E Ida Magli dice questo: se cerchiamo di sapere quale fosse il potere della donna nella società primitiva, dobbiamo renderci conto di quale fosse il suo inserimento nelle istituzioni di potere. L'istituzione di potere per eccellenza è l'istituzione iniziatica. Ebbene, dall'iniziazione le donne sono escluse. In tutte le società antiche o primitive che conosciamo, il gruppo sociale non è formato dall'insieme di donne, uomini e bambini, ma esclusivamente dagli iniziati, e gli iniziati sono maschi. Le donne sono escluse quindi dall'area della società pubblica e conseguentemente dalla leadership del gruppo. Con l'iniziazione si passa dal dato della vita naturale all'acquisito della consapevolezza culturale. Si attua il passaggio dal non essere all'essere. Le istituzioni di potere di tali società sono tutte connesse al rito dell'iniziazione. Le donne, essendone escluse, sono escluse dall'essere e dalla conoscenza. Praticamente vengono escluse da tutto, e questo significa essere escluse da qualsiasi possibilità di potere. Il dibattito sul matriarcato è nato sulla base di quelle società in cui esiste o esisteva un'organizzazione familiare cosiddetta di diritto materno. Il diritto materno è una forma di organizzazione sociale in cui i diritti di una persona sono determinati da relazioni di parentela tracciate attraverso la madre. La discendenza è matrilineare. Una persona, cioè, appartiene al gruppo sociale di sua madre. Ma da ciò non scaturisce nessun potere alle donne. Il soggetto dei diritti è quasi sempre un maschio e l'unica differenza è che la parentela è tracciata nell'ambito della famiglia materna invece che in quella paterna. La donna, personalmente, non è mai altro che il simbolo della sua linea di discendenza. La filiazione matrilineare è la mano del padre o del fratello che si estende fino al villaggio del cognato. La teoria del matriarcato non ha quindi ragione di esistere neanche in questo caso. In conclusione, i più convinti assertori del potere delle donne si sono basati su punti focali immaginati, supposti, proiettati dalla loro cultura maschile, non basati su elementi tratti da situazioni storicamente verificate. Amarti una fatica mi svuota dentro, qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti una fatica mi dà malinconia, che vuoi farci della vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, una notte. Allora, sta andando in onda un altro brano di Gianna Nannini che si intitola Amandoti. Con grande gioia di Claudia che si è portata tutta Gianna Nannini in tutte le salse. Noi avevamo però programmato Patti Smith per questo stacco musicale, soltanto che purtroppo non lo riconosce, non gli piace alla piastra, e quindi beccatevi Gianna Nannini. Consolare le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perduta mente, amandoti. Thank you. Ma veniamo ai nostri giorni. Come dicevamo, e qui abbiamo ripreso da Eva Cantarella, l'ipotesi del potere femminile torna periodicamente, ancora oggi, ad essere evocata. O quantomeno torna ad essere evocato il ricordo di un'epoca nella quale le donne, pur non essendo matriarche nel senso tecnico del termine, vale a dire uniche detentrici del potere politico, avrebbero tuttavia goduto di poteri successivamente scomparsi. Questo infatti è quel che ha recentemente sostenuto Maria Gimbutas in un'opera monumentale che ha avuto un grandissimo consenso e risonanza anche al di fuori della cerchia degli specialisti. Dopo aver analizzato all'incirca 2000 manufatti preistorici, Gimbutas ha sostenuto che in Europa tra il 7000 e il 3500 a.C. sarebbe esistita una società caratterizzata dall'uguaglianza tra i due sessi e quindi tecnicamente diversa dal matriarcato, ma a ben vedere in qualche modo assai simile a questo. Le donne infatti avrebbero riscoperto in questa società un ruolo dominante come sacerdotesse o capi clan, e la vita, non solo quello ma tutta la vita del cosmo, sarebbe stata governata da una grande dea, simbolo della nascita, della morte e del rinnovamento. Una nuova cultura, dunque, in cui si addomesticava il cavallo e si producevano armi letali, che si sarebbe imposta tra il 4300 e il 2800 a.C. e che avrebbe trasformato l'antica cultura europea in una cultura androcentrica e patrilineare, cambiando per sempre, o quantomeno sino ad oggi, il corso della storia. Diverse, diversissime le une dalle altre, dunque, le ipotesi sugli scomparsi poteri femminili, diverse ma ricorrenti. E la tentazione di soffermarsi, sia pur per molto brevemente, sulla teoria di Gimbutas è molto forte, se non altro per mettere in evidenza i problemi che si pongono ove, come la teoria di Gimbutas si impone di fare, si collochi il problema del rapporto donne-potere all'interno della nota e dibattuta questione della cosiddetta cultura indoeuropea. And I know you're not home. I can't help myself. Abbiamo visto infatti che nello scenario storico ricostruito da Gimbutas le tribù patriarcali indoeuropee del Kurgan avrebbero imposto i loro costumi, i loro valori e le loro regole alle pacifiche popolazioni pre-indoeuropee. Ma nella cultura indoeuropea con certezza, sappiamo veramente ben poco. A tutt'oggi, infatti, non c'è alcuna certezza sul luogo d'origine dell'indoeuropeo e sulle vie della sua diffusione. Alcuni linguisti, ad esempio, e non è poco, Vittore Pisani, hanno addirittura negato che dalla lingua indoeuropea si potesse risalire una cultura. Altri hanno invece impegnato gli sforzi di una vita nel tentativo di ricostruire questa cultura e individuarne le diverse istituzioni. Parlo, come ovvio, di Georges Dumézil e della sua ben nota teoria trifunzionale, secondo la quale la società indoeuropea sarebbe stata divisa in tre classi: quella dei sacerdoti, quella dei guerrieri e quella dei produttori, e secondo la quale ciascuna di queste classi avrebbe svolto una funzione e occupato una posizione sociale diversa, rispettivamente quella religiosa e del potere sovrano, quella militare e quella economica. Ora, non ci sembra che sia molto diverso dalla situazione attuale, non è proprio per mettere, no, confusione, ma ci sono delle belle pezze d'appoggio. E continua Eva Cantarella: ma se oggi ha molti seguaci, questa teoria ha anche avuto fieri oppositori, tra i quali, di nuovo non è poco, Arnaldo Momigliano. La base documentaria di questa teoria, ha più volte ribadito Momigliano, è troppo fragile per essere considerata scientificamente valida. Ed è questo appunto il nodo del problema. Se è vero che non esistono basi documentarie sufficienti per ricostruire la cultura indoeuropea, come possiamo pensare di ricostruire in modo scientificamente attendibile la cultura pre-indoeuropea? Allora, ascoltiamo un messaggio, poi riprendiamo la nostra lettura, un SMS che ci ha inviato Luisa da Catania. Per accontentare Luisa, una luce non ce l'ho dietro, ma Amore Cannibale di Gianni. E vabbè. Tutto la pioggia, il mio corpo diventa una lacrima. Lacrimome, di grande amore cannibale. Ora io sono un canto che simula il vento. Non ho più me, il grande amore cannibale. Angeli gialli immobili sopra roghi gravidi, succhiami i respiri ultimi e dopo mangiami. Angeli in grisa armonica. continuiamo. La storia scritta da Jim Butas, insomma, è una storia affascinante, ma lascia la sensazione che una volta di più, e cioè anche questa volta, come tutte le volte che si è parlato di potere femminile, l'ipotesi che questo potere sia in qualche modo o in qualche misura esistito abbia assunto inconsapevolmente la dimensione di un sogno. L'affermazione che le donne in un lontano passato avrebbero detenuto il potere appare spesso, insomma, l'espressione di un desiderio. Il desiderio di credere che, come un giorno esistita una società senza soprusi, che rispettava la natura e non conosceva la guerra, così un giorno tornerà a esistere un mondo migliore. Come del resto scrive esplicitamente Joseph Campbell nelle parole conclusive della prefazione al libro di Jim Butas. È impossibile non avvertire, nel momento in cui appare questo libro, l'evidente rilevanza, in quest'ultimo scorcio di secolo, del bisogno universalmente riconosciuto nel nostro tempo di una generale trasformazione delle coscienze. Il messaggio di questo libro è che si apra un'effettiva epoca di armonia e di pace, in consonanza con le energie creative della natura, come nel periodo preistorico di circa 4.000 anni che ha preceduto i 5.000 di quello che James Joyce ha definito l'incubo di contese determinate da interessi tribali e nazionali, da cui è sicuramente giunta l'ora che questo pianeta si desti. Il potere delle donne come desiderio di un mondo migliore, dunque, e che a un simile desiderio non si voglia rinunziare, è più che comprensibile, ma la storia non è fatta di desideri, sia chiaro, la storia degli uomini non è fatta di desideri, la storia delle donne sicuramente lo è. Questo è un inciso, è scritta su documenti, continua Cantarella, su prove o quantomeno su indizi, molti e concomitanti, che nella fattispecie purtroppo sembrano insufficienti. Occhi azzurri, le somme, giungiamo, diciamoci la verità, per dirla con i Damagli, la parola matriarcato evoca risonanze profonde, suggerisce e stimola reazioni di carattere affettivo, di consenso o di insofferenza, che non è possibile ignorare. Per noi l'ipotesi che le donne almeno una volta abbiano contato, detenuto il potere, cioè, esprime una legittima volontà di rivalsa sul predominio maschile, e la proiezione di una società matriarcale giusta e felice appaga il bisogno di un modello culturale fondante cui rifarsi per il cammino a venire. È un tentativo, cioè, di trovare le fondamenta, la fonte da cui attingere una propria identità distinta e migliore da quella assegnataci dai maschi. Però, di nuovo, mi trovo personalmente a ribadire l'idea già espressa nella trasmissione sulla grande idea, che oggi non esiste la necessità di creare un mito d'origine, essendo la mitizzazione un processo mentale prettamente maschile e primitivo, e che pertanto non abbiamo bisogno di una verità fondante ed essenziale per dare un senso alla nostra esistenza. Conclusione della trasmissione sul matriarcato, vi leggiamo una notizia di oggi che ci è arrivata e che dal martedì inventati.org, a chi interesserà mai mettersi in contatto, ed è, viene da Nuova Delhi del 6 novembre e dell'Androcos, quindi violentata da 5 uomini, una 35enne ha guidato un gruppo di donne e ha distrutto le case dei suoi stupratori. È accaduto nella città indiana di Nagpur, dove la donna, madre di due figli, ha deciso così di farsi giustizia prima di raccontare quanto le era accaduto alla polizia. I 5 uomini avevano già dato fastidio parecchie volte alla donna, che impaurita li aveva denunciati alla polizia, secondo quanto riferito dal quotidiano Hindustan Times. I 5 l'hanno allora avvicinata al suo rientro dal lavoro, accusandola di aver fatto la spia, e l'hanno portata in una casa vicina, dove hanno abusato di lei sotto gli occhi terrorizzati dei proprietari dell'abitazione, minacciati di morte se avessero dato l'allarme. Tornata a casa, la vittima ha deciso di farsi giustizia. Ha radunato alcune amiche e insieme si sono recate presso le abitazioni degli stupratori, distruggendo completamente 3 case. E noi non possiamo che applaudire a questa operazione di grande giustizia.